Durerà tutto il giorno. Più info sull'evento Facebook, che potete trovare tranquillamente cercando Di Mano in Mano o direttamente dalla pagina Occupazione Via del Leone. Domenica 13 aspettate, mi sono... Domenica 13 giornata alla Recani autogestita di Viale Corsica. 4 anni fa prese vita uno spazio nel nostro quartiere, la Recani autogestita, uno spazio che oggi viene utilizzato dagli abitanti della zona come luogo di ritrovo e di svago per i nostri amici a quattro zampe, un luogo ripreso dall'abbandono e dall'incuria a cui era stato lasciato, con lo scopo di creare un progetto, un percorso di condivisione e autogestione nel nostro quartiere. Negli ultimi anni molte cose sono cambiate, gli spazi vengono trasformati e ridimensionati nel nome di una futura città smart ed ecosostenibile, e i rapporti diventano sempre più distaccati e superficiali, allontanandosi da quel senso di comunità che vorremmo in qualche modo diffondere. L'area Cani, in tal senso, rappresenta proprio questo, un luogo di incontro dove ti puoi fermare e condividere un po' di tempo con chi frequenta questo spazio. In questi 4 anni sono stati organizzati molti eventi, pranzi condivisi e iniziative ludiche e culturali. Oggi tutto questo è sotto attacco, non solo come idea opposta all'isolamento sociale a cui ci stanno lentamente abituando, ma soprattutto come spazio fisico che l'amministrazione vuole trasformare in un nuovo inutile parcheggio scambiatore. Per questo, domenica 13, abbiamo deciso di chiamare un evento, una giornata da passare insieme in allegria tra del buon cibo e tanta gente, riprendendo così in mano le sorti di un quartiere che ci appartiene. Il programma della giornata è: dalle ore 13, grigliata a prezzi popolari; dalle ore 15, mercato contadino e mercato dell'usato e del riciclo Di Mano in Mano, che il giorno prima è in Via del Leone. Se si vuole partecipare col proprio banchino, si possono trovare le info sull'evento Facebook. Per tutta la giornata ci saranno musica e dog info point con educatore cinofilo, che sarà a disposizione per dubbi e consigli sui nostri amici pelosetti. Ci vediamo all'area cane autogestita in fondo al parcheggio di Viale Corsica. Buono. Sempre domenica 13 il CSA Next Time Emerson invita tutte e tutti a una visita alle Ville Medice nel quartiere di Castello. Ritrovi alle 14.30 presso il circolo di Castello in via Reginaldo Giuliani. Passeggiatona con spiegazione storico-artistica di Villa Corsini, visita alla Villa Petraia e ritorno tutti insieme al circolo. La partecipazione è gratuita. Gratis. E finiscono qua gli eventi della settimana. E bene, noi ci sentiamo settimana prossima sempre su Radio Wombat. Wombat Wombat, giustissimo, non posso aggiungere di meglio. Via. Rassegna eventi.